ragazzo ha detto: Sano, ti ascolta un po', vabbè, probabilmente perché ho un'altra radio, per quello. Tutto a posto? La sto usando voi. Ah, no, va bene, se così più che bene, considerando che non sei vicinissimo. Comunque Radio 5 è un po' più basso di segnale, c'è un po' di propagazione sotto, sento. Ok, tutto bene, che si dice di bello, Roberto? Sì, no, tutto bene, grazie Roberto, grazie. Niente, dai, sto facendo delle prove con questa superstar, perché ho trovato un bel amplificatorino da copiare e gli ho abbassato il watt, beh, per pilotarlo a picchi positivi, addirittura è un watt e mezzo, neanche due watt, un watt e mezzo. Ma non sei attaccato adesso? Assolutamente no, sono liscio, un watt e mezzo sta dando. Alla grande, allora, sta andando benissimo. Che cos'è, valvolare o trasfusionalizzato l'apparecchio? No, un valvolare, ma da attaccare a questo 3009. Una cosa che voglio fare, perché ti mando la foto, vedi che non c'ho il tuo numero, altrimenti ti avrei mandato la foto di cosa ho fatto ieri. Cioè, ieri ho provato quel 3000+4 con un mixer, però con un piccolo Behringer, ma niente di che, il mixer che avevo di lì buttato in magazzino. E poi mi sono messo ieri notte, gli ho fatto il punticello dalle due resistenze, dai. E gli ho smontato il suo braccio e gli ho messo un'asta, diciamo quella per la cassa della batteria, quella tipo molla. Lo sto usando con uno Shure SM58 adesso. Sì, anche io l'avevo fatto quelle prove, l'unica cosa da fare molto attenti ai rientri, di ronzire, ecco, bisogna schermarlo bene, fare, se no magari ti senti il problemino. È capitato prima volta, anche io l'ho fatto col mix e poi mi avevo costruito un apparecchietto, una scatolina, gli avevo messo un amplificatore dentro, anche io l'ho fatto col lavoro lì, con dire, ti posso dire, anche io ho lo Shure di microfono, HG Shure, con un microfono da 13, andava meglio di quelli di marca, diciamo, di quelli per uso pro, dai. Probabilmente la larghezza di banda, la risposta in frequenza era più limitata, perché con lo Shure magari ti prendeva anche la mondezza, qualunque cosa, gli dava un suono un pochettino, una modulazione un pochettino troppo, come chiamiamola, ricca di tonalità acute e cose, ma tra l'altro che era più scadente andava meglio. Poi naturalmente con i controlli di toni puoi agire, puoi fare quello che vuoi, però ti ripeto, con un microfono da niente, da 10-20 euro, non so quanto costava, andava molto meglio. È capitato più di una volta. Comunque sono belli esperimenti che ti diverti e puoi agire di conseguenza col mix, però quando c'è vicino alla radio basta avvicinarlo, ti rientra qualcosa e ti dà un sacco di perdite di tempo. Ok, di nuovo a te Gavino. Sì, infatti no, ma era solo per vedere una cosa, per, diciamo, per delle frequenze che riuscivo a dare alla mia voce, però niente, perché poi ho provato anche con un Soundcraft, io ho un V16 da un mixer da rack, col tablet sì andava, però non posso mettere un tablet, un mixer così, attaccato al microfono, cioè attaccato alla radio. Quindi mi ho modificato quel 3000+4, gli ho messo questo 58, e non lo so, troppo amplificata, cosa, com'è, Robert? No, ti ascolto molto bene, purtroppo c'è questo disturbetto un po' titiri perché c'è propagazione, ogni tanto si sono in mezzo, però la modulazione è chiara, bella, corposa, ricca di tonalità, non è né troppo esaltata né attenuata, mi piace il bel basso, la voce è bella corposa, bella. Niente, la voglio ascoltare con un segnale un po' più alto in modo che ti possa dare i pini vuoti. Sì, no, guarda, adesso sto aspettando questa roba qua. Niente, al momento lo lascio così basso perché a pilotarlo con tanti watt non serve a niente. No, dovrebbe andare intorno ai 120, 140 watt quell'apparecchio con 2 watt di pilotaggio e niente. No, mi serve giusto una cosa che con un centinaio di watt per pilotare questo apparecchio, mi segui? sì, assolutamente, magari se ne va a 120 arriva a 80, tu non tirargli troppo il collo, in modo che sei dentro i limiti di cosa, di lavoro del transito, perché oltre a una certa cosa soglia magari tende un po' a saturare, magari ti dà qualche problema di spurie, di armoniche, magari, perché sono fatti così quei transito, lavorano, il transito scusa, con le valvole, magari il circuitino magari che li stai mandando tu, non so come è fatto, non lo so, comunque tieniti sempre sotto la soglia di coso, di vedere a 120 arriva a 80, tanto 80 a 120 a livello coso fisico non ti cambia niente di segnale. No, con 2 watt lui, allora il proprietario mi ha detto che con 5 watt gli dava 140 watt con 5 watt di flottaggio, ma io gli ne sto dando addirittura 1,5, quindi i due conti saranno i 180-100 watt, ma sono 80-100 watt a picchi positivi e sono modulati alla perfezione. Ma che cos'è? Che radio è questo? Che amplificatore? È un Sommerkamp, con 3 valvole, una pilota e l'altra finale. Grandi apparecchi, se sono di quelli di vecchia generazione sono una bestia, quelli sono indistruttibili, hanno una modulazione da paura, bellissimi. Qua c'hanno 509, che valvole monta? Monta le 509, le valvole, monta 2 509 o 3 509, però una è pilota. Sì, no, lo sto prendendo perché ha le stesse, diciamo, come estetica è uguale a questo 3009, capito? Non è che mi interessava neanche più il vantaggio, mi piaceva l'abbinamento di come era fatto, capito? Di come ci stava, ho fatto un piccolo film e ci sta la grande, e ci sta poi il nuovo. No, sono vecchia scuola, però sempre molto affidabili, efficienti, niente da dire. Io ho l'Eisel Sommerkamp, la stessa cosa, cambia soltanto il nome, per l'importatore, la Sommerkamp in Europa, però è sempre l'Eisel, e ho l'FL2100 ancora da collegare, e questo sarà sugli 800 watt, però per altri tipi di cosa, diciamo, di utilizzi. Ce l'aveva tramite Claudio, l'abbiamo preso, ma è nuovo, fiammante, ha collaborato anche lui, l'aveva venduto a un amico suo e poi l'ho ripreso io a un prezzo molto favorevole. Devo abbinarlo all'FT3000, c'è anche l'altra radio, però lo metto sull'FT3000, però devo essere tutto a posto, tutto perfetto, poi così che faccia darti, tra l'altro non è che sia molto pratico, dovrò farmi anche dare qualche dritta per accordarla, eccetera. Ok, di nuovo a te, Gavino, avanti. Se lo vuoi vendere quell'apparecchio lì, dimmelo che te lo prendo io. A voi già l'hai preso. No, lo so che la gente lo vuole, compreso Claudio, dammelo a me, te lo ripeto, la sabbizzi, ma anche se mi dà una cifra il doppio di quanto l'ho pagato io, non ne trovi, perché questo è un amplificatore entro i termini di legge, nel senso, nelle bande radioamatoriali non puoi superare i 500 watt, questo ne dà 800, per cui ti tieni anche basso, perché adesso sono tutti con potenze mega galattiche, gos, eccetera, questo è di vecchia scuola, pesa una ventina di chili, è un bel rasone, però è ancora i commutatori belli di banda di quelli di vecchia scuola e i potenziometri per accordare l'interruttore, tutto fatto, c'ha due strumenti, c'è anche l'indicatore di rosso, stranamente perché nell'amplificatore l'indicatore rosso non lo trovi quasi mai, anche di quelli di nuova, di ultimissima generazione, quelli digitali, col display, col menu, eccetera, però ti posso dire è un bel giocattolino e me l'ha chiesto tanta gente, no, non lo vendo, almeno il gusto di usarlo, di nuovo a te Gavino. Sì, no, era giusto per dare. No, io lo stavo prendendo un Sommerkamp, l'F2277, mi sembra che era, l'F2277, era il Sommerkamp, però è andato a vedere, è andato a fare, ha detto guarda non lo spedisco perché era a Pisa, non lo spedisco perché in pratica ho fatto il pagamento, sto facendo il pagamento tramite tutto subito, cioè mi arriva la roba, la controllo, se è buona va bene, però se arriva rotta io non te la ritiro, a me tutto subito mi risarcisce i soldi e a te ti rimane l'amplificatore rotto, capito? Quindi anche lui aveva ragione, mi ha fatto guarda, io non me la rischio questo amplificatore a mandarlo così, a spedirlo, perché è una cosa abbastanza delicata, perché mi sono andato a prendere il Sommercamp L2277 e dava lo stesso 600 watt in AM. E no, gli amplificatori poi a valvole, devi smontarne le valvole prima di tutto, dargli una confezione rigida e poi dentro uno scatolone tutto rinforzato. Noi mettevamo le bottiglie per fare le cose, però è un rischio, sono apparecchi pesanti, questi corrieri molte volte per velocità pigliano, le appoggiano, ci mettono roba sopra, e ho visto tanti dei problemi, ma anche cose importanti rovinate. Quelle cose si vanno, si prendono, come ho fatto io, si va sul posto, se si riesce a fare, se no meglio rinunciare, perché se no un problema, vai, ti succede qualcosa, per i contraccolpi le valvole le risentono tantissimo, è come una lampadina, le parole povere, i filamenti, per cui le valvole devi staccare, spedirle, scatolarle bene singolarmente in modo che non vengano cose, se no ci butti tutto, sono più soldi per sistemarlo che altro. Ok, io quello che ho preso era di un amico di Claudio, qua ci lo conosci più, non ti faccio nome perché non si fa, qua ce lo conosci pure. E siamo andati giù, l'abbiamo preso, recuperato sempre altre cose, poi l'ha provato lui, l'ho dato lui, Claudio, ha detto va più che bene, l'ho rimesso qua, pronto a attivarlo, appena c'è tempo, che devo mettere un'altra antenna, per cui per il momento non faccio niente, non mi fido a lasciarla con i filari. Ok, di nuovo a te, avanti Gavino. Sì, positivo, positivo. Poi stessa cosa è successo a me, sicuramente mi hanno perso l'ICOM, sicuro, perché ce l'ho in spedizione, l'ho spedito da Biancuni, no? Dove volete. E questo pacco sta facendo in consegna lavorazione a Bologna. E adesso domani dovrò prendere qualche provvedimento, altrimenti devo prendere l'aereo. E devo partire, non se ne toglie piede, sono una massa di merda, se non lo trovo davanti, perché addirittura ha fatto la consegna, non c'è andato e ha messo gli attentati che non ha potuto consegnare perché il destinatario era sempre, capito? Invece non è vero, perché Biancuni non sta avanti, era lì, nei negozi, eppure non stiamo parlando di una persona così. Quel corriere sarebbe proprio cosa di vederlo in faccia, perché vabbè, a minacciare non si fa, però ascolta, vabbè, ma tu hai qualche antenna diciamo da vendere? No, purtroppo no, l'ho preso da poco, l'ho dovuto acquistare la 7000 verso aprile, l'ho presa. Dimmi una cosa, ma il problema te l'ha causato Bianconi, io ho spedito tante volte una persona serissima o il corriere, non ho capito. No, il problema me l'ha causato il corriere, non Bianconi. A Bianconi non è ancora arrivato questo affare, ma non gli è arrivato da quasi 2 settimane in giro questo affare, capito? Ed è fermo a Bologna, è fermo al centro di smistamento a Bologna e non si riesce a contattare nessuno. E adesso vedo cosa fare. Che cos'era? Che ICOM era? Un veicolare o? No, un 737, un C737, un base, un HF. Scusa, ho risposto da un'altra, sto facciamo rispondendo a un amico, 145. Cosa hai detto? Scusa, Gabri, mi sono distratto un attimo. Ti ho detto, un ICOM, un IC737. IC737. Lo conosci, una base HF. Vagamente, non l'ho mai visto, però su figura sì. Cosa c'aveva, che problemi aveva? Boh, non lo so, lo porto a controllare per quello, perché in pratica secondo me sono i finali. Ha avuto un rientro di RF e mi dava, rimaneva in tensione anche da spento. Sono apparecchi molto delicati quelli lì, e poi devi trovare gente che li sappia riparare, perché ci sono un sacco di praticoni e poi si mettono a fare invenzioni e cose, non è, perché dice si è rotto il transistor, si è rotto il condensatore, non è che vedono di capire la causa per quale motivo si è rotto, pigliano e cambiano, mentre uno come Bianconi è un espertissimo, poi ce ne sono altri 3 o 4, però molte volte quando sono apparati molto molto vecchi preferiscono lasciar perdere, perché io ho il 940 che mi sta dando problemi, che adesso adesso sta funzionando bene, ma è compreso qualcosa, deve essere ha fatto male l'estate, cosa che si dica, il caldo gli dava fastidio, adesso è tutto a posto. Ogni tanto apparivano questi puntini, lo dovevo spedire a settembre e nessuno lo voleva, perché tramite un grandissimo radioamatore amico, che lui per favore, quello bravo bravo Graziano Braga, non ha tempo, nel senso dice non li tocco questi apparati perché mai li farò giusto io, e poi dopo una settimana si rompe un'altra cosa, non ti posso dare garanzia. E tramite conoscenza era riuscito un amico a farselo fare, e poi dovevo spedire, poi stanno funzionando bene, e ho lasciato perdere, perché sta andando bene. Però quando sono apparati vecchi non se ne muore, ne rimane. Diciamo che nessuno si prende responsabilità. No, vabbè, ma questo qua me l'aveva detto tranquillo, me lo mandi tranquillo che lo facciamo, lo si ripara. Infatti mi ho preparato anche qualche po' di soldino per aggiustarlo, però mi dà fastidio perderlo questa cosa, mi dà fastidio perderlo perché c'è un pacco che hanno perso e un pacco che hanno fatto l'imbroglio, mi dà fastidio. E almeno spero di essere fortunato che facciano il reso al mittente. Non lo so, quello che avevo io, che poi è andato a finire a Claudio, che me l'aveva dato a me, lo stava riparando uno, vabbè, un amico qua ha provato, ha detto no, mi fermo qua perché ci sono delle cose un po' delicate, ci voleva attrezzatura per sistemarlo, e ci stava prendendo un sacco di tempo, e poi è stato spedito tramite Claudio da un altro tipo, ma ha fatto danno, e alla fine è andato a finire CSOM, mi sembra, per metterlo a posto, il 9:20 gliela sistemato. Sì, perché bisogna darlo. Bisogna darlo, se lo fa io qua. Io sono scioccato da questi corrieri, e sono un po' rotto di scatole, perché loro devono capire che la gente fa sacrificio per comprare le radio e per comprare qualsiasi cosa, e loro devono risolverla bene, loro devono fare il loro lavoro. Cioè, cosa dico? Tu sei parato per consegnare, devi consegnare. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Io spero che si dia a perdere la convenzione con le poste italiane. SDA, questi GLS sono una massa di merde, se io vengo a conoscere il responsabile di questa gente qua, lo alzo a calcio in culo. Io sono capace di farlo, perché io ho un po' un carattere di merda, ho le capacità e le forze di farlo, perché le forze di farlo ce l'ho, non è la prima volta che io affronto persone, e ho affrontato anche persone di un certo tipo. Io sono buono e bravo, però ho le capacità di affrontare e le forze per farlo, credimi Roberto. E a cercare di trovare il sistema di recuperarlo, guardando tutti i passaggi, le tracciature, eccetera. Sì, però non risponde nessuno. Numero verde, l'altro giorno lo dire, 10 euro, perché un muro è un muro 80 minuti. Se io conosco il responsabile di questa gente qua, lo alzo a calcio in culo. Ma guarda che lo faccio, adesso io sono costretto, lo sa cosa? A prendere. Lunedì sera, se domani non viene consegnato, sono costretto lunedì sera alle 11, domani sera alle 11 e un quarto, domani notte, a prendere l'aereo. Non prendo il biglietto, prendere l'aereo, a spendere 160 euro il biglietto. E a portarmi da mezzanotte un quarto, lo arriva, mezzanotte e mezzo, davanti alla cosa insediata. A canale 5 esco. Guarda che io ho fatto situazioni che loro, vabbè, neanche adesso ormai abbiamo famiglia, però non bisogna svegliare il cane che dorme. Io allora li faccio uscire a canale 5. Io lo so, bisogna cercare un po' di trovare una soluzione, dai, più economica per te, e in modo che si riesca a risolverlo. Vedere un pochettino, trovare la persona giusta, il responsabile, parlare, mandargli una lettera da qualche amico avvocato o qualcosa, perché sennò è un problema. Poi chissà dove è andata a finire questo pacco, magari l'hanno consegnata a un altro, l'hanno evurato, lo sai, io conoscevo gente che facevano cose sporche anni, tantissimi anni fa, si vendeva prima dei pacchi secondo quello che c'era e poi se li vendevano. Dicevano no, io non ne ho preso, e si scaricavano le colpe uno con l'altro. Poi qualcuno l'hanno licenziato, è uscito in giornale e le cose sono finita. Stiamo parlando una quarantina anni fa, 35 anni fa, una cosa del genere. E qualcuno poi venivano questi specie di chiamiamoli portantini, perché non puoi neanche chiamarli corrieri. Si aprivano i pacchi, vedevano che c'era qualcosa di interessante e poi andavano per i giri. A ti interessa? Guarda che c'è un fucile subacqueo, bello, nuovo, mai usato. C'era un amico e facevano i giri così. C'è una radiolina, non so cosa, di tutto di più. Aprivano i pacchi, poi li richiudevano e facevano finta di niente. Già lo so. Quello i pacchi li aprono là sotto, mettono il blocchetto, oppure la colpa del dipendente, non è colpa di loro. E hanno fatto anche quelle così, hanno fatto anche quelle cose lì, con orologi seri. Però come non funziona? Però tu dirai, ma la radio non ti devi rovinare la vita per la radio. È il gesto. Io intanto, vabbè, domani mattina se mi dà il coso e vado, a parte il fatto che qua in insedia a Sassari non risponde nessuno, sono una massa di miserabili, domani vado in insedia e vedo, e li prendo magari alle buone e dico se possono contattare, se sgarrano appena, se mettono appena un puntino su lì, dico, beh, adesso oggi uscita Violina, adesso oggi usciamo tutti insieme a Violina. Metti come andare qua la cosa, il referente, beh, di lì che loro hanno i contatti direttamente, telefoneggiano, se no li togliono sottoterra, dici io qua sto chiamando direttamente la cosa, o le forze dell'ordine, o i coso, o le televisioni, qua bisogna risolvere il problema, trovare la persona di lì dentro, con calma e tranquillità, con eleganza, e dopodiché loro devono risolvere, se no mi restituiste i soldi, quanto vale 1.000 euro, tu mi dai 1.000 euro di valore della merce. Si quantifica e si fa. Ok, però io ti devo abbandonare, che adesso devo uscire, devo fare cosa. Dai, ci sentiamo con calma, quando coincide è sempre un piacere parlare. Ok, ciao, buona giornata. Ciao Roberto, dai, ti lascio andare. Ciao, buona giornata.